Focus Economia. Con Simone Spezia. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa nuova puntata di Focus Economia. Oggi sarete con me, poi domani tornerà Sebastiano Barisoni. 349-238-6666 per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. I temi di oggi, i temi di questa giornata economico-finanziaria, in primo piano sicuramente c'è la vicenda di Fiat e le parole dell'amministratore delegato di Fiat Chrysler, Sergio Marchionne. Siamo all'indomani dell'annuncio dell'acquisto da parte di Peugeot di Opel e di quelle che possono essere le prospettive evidentemente di questa operazione, che crea un colosso europeo, il nono gruppo mondiale per dimensioni. Bisognerà vedere naturalmente se Peugeot saprà far fruttare Opel come in tutti questi anni General Motors non è riuscita a fare, e dall'altra parte si attende una risposta di Fiat e di Fiat Chrysler per capire se Marchionne, se Fiat Chrysler si muoveranno in una direzione di nuove partnership. Oggi è stata citata General Motors nuovamente, è stata citata Volkswagen dall'amministratore delegato appunto di Fiat Chrysler, ma soprattutto c'è una questione che sta facendo titolo in queste ore sui quotidiani online e non solo, ossia il fatto che entro un paio d'anni la fabbrica di Pomigliano smetterà di produrre la Panda. Sergio Marchionne lo ha detto chiaramente. La questione fa titolo, ma questo non vuol dire che Pomigliano smetterà di produrre. Vuol dire semplicemente che la prospettiva più volte dichiarata dallo stesso Marchionne, dichiarata dalla stessa Fiat Chrysler, è questa, che le produzioni di auto a più basso costo vengano progressivamente spostate nei paesi con basso costo del lavoro, mentre invece si tengano in Italia delle produzioni un po' più sostanziose dal punto di vista delle prospettive economiche, almeno del costo per ogni singola auto, come per esempio Alfa Romeo, tanto per fare un esempio. Comunque questo sarà il tema che affronteremo più avanti, lo faremo con Andrea Malan del Sole 24 Ore, che si trova tra l'altro inviato a Ginevra, dove si è aperto il salone dell'auto, e questo sarà il nostro tema che arriverà dopo le 18. All'inizio della trasmissione ci occuperemo invece di Europa. Ricorderà la vecchia pubblicità, no? Du gusti is meglio che one, due velocità sono meglio che una. Evidentemente questo sembrano ritenere i quattro leader europei, tra cui il premier Gentiloni. Forse meglio dire due velocità è meglio che zero, cioè l'idea è di un'Europa che proceda su due binari: un binario di più forte integrazione per alcuni paesi core, come per esempio appunto la Francia, la Germania, l'Italia e la Spagna, e altri paesi invece che vadano un po' più a rilento, soprattutto dal lato dell'integrazione. Chiariamo subito, e lo chiariamo per gli ascoltatori, che a volte si tende a fare un po' di confusione su questo, e forse anche colpa di noi giornalisti, diciamocelo. Qua non si parla di euro a due velocità, e quindi di due euro differenti, uno più forte e uno più debole. Si sta parlando proprio di integrazione europea. In particolare, in questo caso, si sta parlando di difesa, e quindi l'idea è di iniziare a far convergere alcune politiche e non di distinguere quella monetaria. E ne parleremo all'inizio. Ovviamente per il momento sono solamente dichiarazioni di principio. Certamente quello che possiamo dire, è una mia impressione personale, vedremo se sarà confermata dai fatti, è che tutta una serie di elementi, tra cui l'arrivo di Trump alla Casa Bianca e comunque il filo rosso che in qualche misura lo collega a Putin più o meno lecitamente, e che Trump, che chiaramente ha poco interesse ad avere un'Europa forte, e il rialzare la testa e il diventare sempre più forti di una serie di movimenti anti-europei, sta spingendo ad una riflessione forse un po' più profonda. Il punto sicuramente non altissimo è il libro bianco presentato a Jean-Claude Juncker nei giorni scorsi sul futuro dell'Europa. Forse questa, quella individuata dai quattro leader ieri, potrebbe essere, come dire, una via per l'Europa. Ne parleremo più avanti, come sempre facciamo, con Adriana Cerretelli del Sole 24 Ore. questioni europee e rapporti con l'Italia hanno molto a che fare, hanno molto a che fare con la vicenda del Monte dei Paschi. A quanto pare ancora in corso una trattativa abbastanza serrata tra Bruxelles e l'Italia sul tema appunto del salvataggio del Monte dei Paschi di Siena. Europa che vuole un piano estremamente dettagliato dall'Italia, capire se tutto questo possa rientrare appunto negli aiuti di Stato o violi appunto alcune norme e alcune normative europee. Dall'altra parte appunto si attende il futuro di Monte dei Paschi da una parte, e dall'altra parte cercheremo di fare un punto più generale sulla situazione del sistema bancario, come dire, dopo un po' di eventi che ci sono stati dall'inizio dell'anno e non solo, dall'aumento dei capitali di Unicredit e passando naturalmente anche per le banche venete, altro tema centrale. Ovviamente ci occuperemo di mercati. E quando mai non lo facciamo? FTSE MIB -0,09%, FTSE OCR -0,02%, a metà giornata andavano un po' peggio le borse, Parigi cede 0,5%, Francoforte in lieve guadagno dello 0,02%, mercati che sono andati malino un po' per tutta la giornata e che aspettavano l'apertura di Wall Street che non è stata confortante, il Dow Jones cede lo 0,03%, lo Standard & Poor's 500 lo 0,14%, pesa diciamo un po' di incertezza generale, un po' di debolezza complessiva e dall'altra parte l'idea che giovedì nella riunione del direttivo della Banca Centrale Europea Draghi possa, se non mettere in atto, annunciare un come dire, una, se non una stretta monetaria, comunque magari una riduzione per esempio degli acquisti di titoli annunciati dalla Banca Centrale Europea, perché lo ricordiamo agli ascoltatori, ormai l'inflazione europea è intorno al 2%, che è l'obiettivo della Banca Centrale Europea. Certo, è un'inflazione che ha molto a che fare con le materie prime, e però è qualcosa che Draghi potrebbe essere portato a tenere in considerazione. Questi temi di oggi, andiamo alle notizie in breve, ricordandovi sempre il numero 349-238-6666 per gli sms e per i messaggi su WhatsApp. Le materie prime innanzitutto, con l'oro in calo dello 0,5% a $1,217 l'oncia. Per quanto riguarda il petrolio, ci arrivo subito, eccolo qua, nel WTI con consegna d'aprile, quello quotato a New York, più 0,24% a $53,3 al barile. Il Brent, qua abbiamo la consegna a maggio, più 0,13% a $56,08 al barile. A proposito di mercati, c'è da segnalare che dopo tutta la celebrazione del primo giorno e della quotazione in borsa, Snap, la società a cui fa capo Snapchat, che è il social network del quale vi abbiamo ampiamente raccontato, un social network visto con grandissime prospettive perché è usato soprattutto dai più giovani, cala in borsa per il secondo giorno consecutivo, perdono il 9,25% le azioni a $21,57, e siamo sotto il prezzo di $24 dell'IPO. Alcuni gruppi americani intanto stanno pagando in borsa le dichiarazioni del presidente Donald Trump, che chiede maggiore concorrenza nella farmaceutica. A questo sono dedicati 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore, che come ricordiamo vanno in onda anche su RDS, su Radio Dimensione Suono. Oggi è firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Alessandro Platerotti. I 100 secondi di Radio 24, Il Sole 24 Ore. Con Alessandro Plateroti. Per gli analisti di borsa, i movimenti degli indici azionari sono sempre legati ad andamenti macroeconomici, indicatori geopolitici e vari eventi che possono avere un impatto strategico sui valori quotati e sulle aziende globali. In realtà il mondo sta cambiando e chi cambia più di tutti è nuovamente Donald Trump. Fin dal suo insediamento, ogni tweet, ogni dichiarazione fatta sul social network ha un impatto immediato sui prezzi di borsa e su quelli delle obbligazioni, come se il presidente americano fosse ormai il vero superindice di Wall Street. Ma che cosa è successo questa mattina per provocare il ribasso? Un tweet di Trump in cui dice che vuole maggiore concorrenza nel settore dei farmaci, ovvero prezzi più bassi. Aveva fatto lo stesso con la difesa, aveva fatto lo stesso con altri settori industriali che avevano beneficiato di grandi profitti e di aiuti di Stato, e ora tocca ai farmaci. Le dichiarazioni di questa mattina, voglio più concorrenza, hanno provocato un crollo verticale della Johnson & Johnson, alla Merck e agli altri grandi colossi del farmaco internazionale. Per Trump costano troppo e una delle promesse che aveva fatto durante la campagna elettorale era proprio quella di rendere più accessibile sia la sanità, rivedendo la riforma di Obama, sia i farmaci, tagliandone i prezzi. Bisognerà vedere come reagiscono adesso le case farmaceutiche. Chiaramente l'idea di tagliare i prezzi non è nei loro radar, ma vista l'irruenza del presidente quando si tratta di definire ruoli dell'industria e del mercato, sarà interessante vedere se i prezzi scenderanno o se saranno i prezzi di borsa a scendere una volta che l'industria avrà risposto picche. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Oh, non posso non cogliere nel messaggio WhatsApp che ci manda l'ascoltatore a proposito dell'Europa a due velocità. Dice: se le due velocità sono date a seconda di chi ruba più velocemente, più lentamente o chi va in prescrizione. È chiaro che il riferimento è all'inchiesta pubblicata oggi dal quotidiano La Repubblica, che racconta di quelle che sono state tutte le richieste di restituzione di denaro nei confronti degli europarlamentari italiani. Tra cui, ma immagino che sarà materiale per il nostro Sebastiano Barisoni e per la sua classifica del venerdì, ma ne cito due giusto per dare un'idea. Lara Comi, che ha assunto come assistente parlamentare la madre. Daniela Aiuto, scusate, rido, è il solito discorso, si ride non perché, per non piangere si ride, ecco, non è che, so che sono soldi nostri, C'è Daniela Aiuto del Movimento 5 Stelle che, nomen omen, allora, si è fatta pagare per studi sul turismo che le sarebbero serviti per svolgere l'attività parlamentare, ma questi studi sono stati fatti con l'aiuto di Wikipedia. Anche Laura Gea, che avrebbe assunto come assistente un imprenditore che è anche un attivista grillino, l'attuale viceministro Nencini, che tra viaggi e cose varie ha speso 450.000 euro in più di quello che avrebbe dovuto quando era europarlamentare, e però appunto, come scrive l'ascoltatore, è andato in prescrizione. Vabbè. Ripeto, forse sarà materiale per Sebastiano Barisoni per la classifica del venerdì. Ancora a proposito di Trump, se ne parlava prima, Sergio Marchione dice: non mi voglio addentrare in discussioni politiche, cerco di essere obiettivo ed è di valutare in quale modo portare avanti le attività di Fiat Chrysler negli Stati Uniti a fronte della richiesta di Trump di riportare le fabbriche negli Stati Uniti. Riporteremo dal Messico alcune attività, questo lo otterrà, ma è una cosa che riguarda il mercato americano e l'occupazione americana, dice Marchion. E appunto, sulla Panda, via da Pomigliano nel 2019-2020, la stessa Pomigliano può fare altre auto. Arriveremo più avanti a parlare appunto del settore auto. I dati dagli Stati Uniti: il deficit commerciale americano in gennaio è salito ai massimi degli ultimi 5 anni, volando a 48,5 miliardi di dollari, dato in linea con l'attese degli analisti. Importazioni che sono salite del 2,3% a 240,6 miliardi, esportazioni aumentate dello 0,6 a 192. Sì, qualcuno fa notare, non hai detto i partiti degli altri. Nencini, socialista di centrosinistra, Lara Comi di Forza Italia. Giusto, per carità. Par condicio completa, mi sembra, in questo caso. Il Brasile, il PIL brasiliano è crollato del 3,6% nel 2016, facendo registrare la recessione più lunga della storia per la maggiore economia dell'America Latina, un risultato negativo comunque migliore di quello che era stato previsto dalla Banca Centrale, che prevedeva un 4,5% di calo. E c'è l'OCSE che dice che la crescita globale dovrebbe accelerare un po', ma rimane troppo lenta, nota rischi in grado di deragliare la ripresa, fra cui la sconnessione fra i mercati finanziari e l'economia reale. Ancora qua siamo. Nell'eurozona, dice ancora l'OCSE, c'è spazio di manovra per iniziative di bilancio più ambiziose ed efficaci, anche se la crescita continuerà a tasso moderato. Prevede l'OCSE un PIL italiano stabile ad un più 1% l'anno nel 2016, 2017 e 2018, con il livello più basso nell'anno in corso fra i maggiori paesi membri dell'OCSE. E nel frattempo non buoni segnali arrivano dalla Germania, dove gli ordini all'industria sono scesi del 7,4% in gennaio rispetto al mese precedente, quando però erano cresciuti del 5,2%. Va bene, tutto il fronte delle banche ci arriveremo più avanti. Il Sole 24 Ore scrive, citando diverse fonti, che la Commissione Europea avrebbe chiesto alla vigilanza della Banca Centrale Europea chiarimenti su qual è l'effettivo fabbisogno di capitale del Monte dei Paschi. A dicembre Francoforte aveva alzato da 5 a 8,8 miliardi l'entità dell'aumento, ma ci arriveremo tra poco. E la Commissione Europea dice di aver avuto contatti e tuttora una buona collaborazione con la BCE sul caso del Monte dei Paschi. Nel frattempo, proprio sul tema delle banche italiane, JP Morgan dice che bisogna vendere, lancia l'allarme per i titolari di obbligazioni senior, ossia quelle non subordinate, di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza. Suggerisce di vendere i bond dei due istituti, in quanto un salvataggio statale, attraverso la forma della ricapitalizzazione precauzionale, potrebbe non superare le forche caudine dell'Unione Europea. Il Tesoro dice di seguire con attenzione queste vicende. E poi il fronte dell'inchiesta Consip è stata depositata in Senato, primo firmatario Andrea Augello di Idea, la mozione per chiedere al governo l'azzeramento dei vertici. Sono 25 complessivamente le adesioni. Nel frattempo, a proposito di acquisti pubblici, finisce gli arresti domiciliari il primario dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli, Francesco Izzo, e il dirigente amministrativo e direttore dell'ASL Napoli 1, Elia Abbondante, nell'ambito di un'inchiesta proprio sulla fornitura di apparecchiature all'ospedale, in particolare all'Istituto Tumori Pascale. Anche qua inchiesta condotta tra l'altro dal PM Woodcock di Napoli. Vigilia dell'8 marzo, oggi più che mai è necessario battersi per il riconoscimento del diritto alla salute delle donne, dice il ministro della salute Lorenzin in un dibattito promosso da Farmindustria in un convegno. Chi l'ha detto che donne e uomini sono uguali, pari opportunità nella differenza? Questo il titolo del convegno, che racconta che sono il 52% degli addetti nel settore ricerca e sviluppo le donne, il 43% nella sola industria farmaceutica. In un caso su tre la donna è un dirigente. Sentiamo Lorenzin al microfono di Chiara Piselli sul primato delle donne in ambiti prima maschili, nelle lauree scientifiche e nella ricerca, e dunque di meritocrazia. La ricerca è meritocratica, quindi quando tu poi vai a valutare la produttività, quello che sei capace di fare, non ha importanza se sei uomo o donna. Oggi le donne laureate in materie scientifiche sono sempre di più, soprattutto nella chimica, nella biologia molecolare, in medicina, e ovviamente si fanno spazio in ambiti che prima erano maschili, perché quello che conta è la propria capacità professionale, la capacità di fare ricerca, scoperte e poi di brevettare, e in questo non c'è proprio distinzione di genere. E sentiamo anche il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, al microfono di Chiara Piselli sempre. È un contributo estremamente importante, perché il 43% degli addetti è donna, ma soprattutto nella ricerca, che è la fonte della nostra innovazione, del nostro futuro, la presenza femminile è il 52%, quindi io posso tranquillamente dire che l'innovazione e la ricerca farmaceutica sono al femminile, quindi i risultati arrivano da questa forte presenza, che è anche importante, e soprattutto anche a livello dirigenziale noi abbiamo dei numeri molto importanti. Dicevo prima, il 43% nell'industria farmaceutica donna contro il 25% dell'industria in generale, 52% della ricerca, uno può dire un numero così che non dice niente, nel resto dell'industria, nella ricerca c'è il 16,8%, quindi crediamo di essere un arcipelago, dicevo prima, felice. Allora, solito giro di polemica e insulti, giusto per notare, non so, l'ascoltatore dice: ma perché non ti candidi direttamente o fai un partito tuo, così vediamo se fai di meglio? Ma a cosa si riferisce esattamente? Posto che, diciamo così, con tre figli e un cane, una trasmissione tutti i giorni, di tutto tempo, meno che di mettermi a fare un partito mio. E poi fa notare invece un ascoltatore più seriamente, via SMS al 349-238-6666, di mettere una M maiuscola per introdurre la mitica Adriana Ceretelli. Buonasera Adriana. Buonasera. Eccoci qua. Allora, si diceva in apertura, no, la vecchia pubblicità, "Du gust is meglio che one", cioè due velocità sono meglio in questo caso che zero, pensano almeno questi quattro leader europei che si sono riuniti. Cioè l'idea, lo diciamo in apertura, lo ricordiamo agli ascoltatori, perché a volte ci si confondono su questa cosa, si confondono le idee, non si tratta di fare un euro a due velocità, si tratta di fare un'Europa a due velocità, cioè una maggiore integrazione da una parte in attesa che eventualmente arrivino gli altri, se vogliono arrivare. Tu cosa ne pensi? Ma io penso che il problema dell'Europa è oramai diventato molto più profondo e serio delle velocità, ma penso anche che se si continua così ci autodistruggiamo. Uno dice: vabbè, perché siamo obbligati, diciamo, a fare l'Europa? Beh, io credo che siamo obbligati non perché l'abbiamo ereditata, ma perché il mondo nel frattempo, in 60 anni, è cambiato radicalmente, è diventato globale, e allora se non si è almeno Europa rischiamo veramente di essere schiacciati dalle altre culture emergenti, dalle altre società, dagli interessi degli altri e delle altre culture. Detto tutto questo, allora come si fa? Allora, in questo momento siamo messi talmente male che uno dice pragmaticamente: beh, cerchiamo di muovere il convoglio con i paesi di testa che vogliono ripartire. Ma il problema è che bisognerà, secondo me, ricostituire la volontà politica di farlo davvero e il consenso democratico, perché non ci dimentichiamo che siamo in Europa, siamo delle democrazie e l'Europa non ci può cadere in testa dall'alto. Allora, noi prendiamo i quattro grandi dell'euro e dell'Europa, perché la Gran Bretagna esce, quindi sono rimasti Germania, Francia, Italia e Spagna. E questi grandi dicono, hanno detto e ripetono, ripartiamo con più velocità, ripartiamo con la difesa, ripartiamo con l'Europa sociale, ripartiamo con, diciamo, nuove idee fino ad arrivare all'Europa politica. Ma la cosa è più facile da dire che da fare, perché persino tra i quattro non c'è una perfetta concordanza di vedute. E in secondo luogo, sicuramente Francia e Germania, forse l'Italia, la Spagna per il momento no, sono tutti paesi destinati a cambiare governi. Allora, in Francia è certo, in Germania forse la Merkel non tiene, in Italia noi ci auguriamo di arrivare a fine legislatura, ma comunque nel 2018 cambiamo a nostra volta. Quindi siamo in una fase in cui è molto difficile progettare il futuro. Questo sicuramente. Tra l'altro, parlavi della Francia, arrivano notizie di queste ultime ore che Emmanuel Macron avrebbe raggiunto per la prima volta Marine Le Pen in un sondaggio sulle presidenziali, appunto, che si svolgeranno fra un mese e mezzo in Francia. Macron guadagna 1,5 punti, arriva al 25,5, mentre la leader del Front National ne perde uno e scende al 26%. Naturalmente stiamo parlando solamente del primo turno, poi in Francia ci sono due turni e viene dato, almeno per il momento, vincente Macron rispetto alla Le Pen nel secondo turno. Allora ti fermo un attimo, andiamo alla pausa, andiamo a sentire che cosa andiamo a sentire il meteo in questa pausa e poi ci ritroviamo, Adriana, e vediamo anche di ragionare con te, perché devo dirti la verità, il ragionamento che tu stai facendo, che è in linea di massima condivisibile ed è, come dire, un segnale, anche una sottolineatura su quella che è la debolezza dei leader che ci sono al momento, dall'altra parte però per così dire sembra scontrarsi con quella che è la realtà europea in questo momento, cioè tutti vanno verso una disintegrazione, soprattutto i paesi entrati di recente, a dire il vero, in Europa, e dall'altra parte in qualche modo ci si dovrà muovere, e perché questa non potrebbe essere una scelta. Ti voglio sentire, ma subito dopo la pausa. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Allora. Innanzitutto va detto all'ascoltatore che ci scrive che è già partita la macchina della disinformazione di Radio 24 anti Le Pen, poi venga qua a raccontarmi l'impatto che Radio 24 avrà sulla campagna elettorale francese e ne discutiamo. Chissà. E non mi azzarderei, lo dico ad ascoltatori che fanno paragoni di questo tipo, a far paragoni storici di qualche genere. Come la caduta dell'Unione Sovietica è stata benefica per le ex repubbliche sovietiche, così la caduta dell'Unione Europea o Sovietica Europea, scrive, sarà benefica per l'Europa. Ma di che parliamo? Parliamo di due mondi diversi, di due realtà politicamente completamente diverse, di un mercato che è completamente diverso, di un mondo che è cambiato, come ci diceva Adriana Cerretelli poco fa. Allora Adriana, io come dire, in assoluto devo dirtelo sinceramente, non vedo tutta questa negatività nell'idea che appunto ci sia una sorta di locomotore spinto avanti da quattro paesi, pur con dei leader in questo momento politicamente piuttosto deboli, che vedremo se reggeranno, vedremo naturalmente se avranno le stesse idee, e che però provi a tirare la carretta un'ultima volta per vedere se gli altri vengono dietro, vedendone magari i benefici. No, ma io non vedo un fatto negativo nell'Europa a diverse velocità. Io, a parte che lo vedo nel senso che, per esempio, se si spacca il mercato unico è uno svantaggio anche per le avanguardie, perché il mercato unico vale perché oggi ha più di 500 milioni di cittadini. Naturalmente se già verrà amputato dei 60 milioni di inglesi, ma se dovesse essere ulteriormente amputato, secondo me sarebbe un danno per tutti. Ma diciamo, a prescindere da questo lato, non sono l'Europa a più velocità, secondo me, il problema, è la loro fattibilità, nel senso che bisognerà vedere nei fatti come gli stessi quattro, che naturalmente non saranno solo quattro, ma ce ne saranno altri, no? I paesi certo. dell'est probabilmente no, ma i vecchi fondatori dell'Europa di sicuro, alcuni paesi come la Finlandia mi immagino che ci saranno, persino la Danimarca che è fuori dall'euro ma ci potrebbe essere, insomma ci sono diversi paesi, ma il problema è che persino tra i quattro non c'è una idea comune di che cosa fare in futuro, che tipo di struttura dare all'Europa. Per esempio, i tedeschi sono sempre stati federalisti, adesso dico un dettaglio che però è fondamentale, i tedeschi da sempre sono stati tendenzialmente federalisti, i francesi sono sempre stati esattamente il contrario, non so, da De Gaulle, Europa delle Patrie in avanti, hanno sempre mantenuto l'idea di un'unione di stati, se non fosse però un'unione federale. Già questo è un problema sostanziale. L'Italia, per esempio, era, oggi bisogna vedere perché naturalmente le dinamiche politiche in Italia sono cambiate, eppure il consenso all'Europa è molto cambiato, ma una volta l'Italia era certamente federalista, istintivamente lo è ancora. La Francia è invece, la Spagna, scusate, è invece piuttosto più gollista, anche se è molto allineata sui tedeschi. Ma dico questo per dirne una, sì. Ma sulla stessa difesa, per esempio, che è una delle priorità del momento, si sa che la Francia vedrebbe di malocchio l'idea eventuale di condividere il famoso bottone nucleare con la Germania, che pur a suo tempo ha concesso la condivisione sul suo marco tedesco. E così, per esempio, prendiamo... È vero, Adriana, permettimi ti posso portare un'altra osservazione che arriva da un ascoltatore, il quale dice, però è vero anche che quando l'Europa si è fatta c'era una visione comune, ma sulle soluzioni pratiche di come mettere insieme l'Europa le idee non è che fossero tanto comuni. Cioè, alla fine è sempre così, no? È un tema di trattativa e di punto di caduta di questa trattativa, no? Certamente, però io a questo oppongo un altro fatto. Quando parliamo di Europa, noi pensiamo sempre all'Europa che è stata fatta. E perché è stata fatta? Perché c'era un momento storico favorevole, ma soprattutto perché gli europei, intesi come popolazione e governi, avevano capito l'importanza dell'Europa in un mondo che cominciava allora a globalizzarsi, ancora non lo era, in fondo l'Europa è stata la globalizzazione degli europei e degli stati nazionali in un qualche modo. Oggi il comune sentire non è più quello là e i governi se ne sentono condizionati, come è normale che sia in una democrazia. Oggi abbiamo movimenti populisti praticamente dovunque, che è un'accezione, se si vuole, un po' troppo generica per definirli. La vera verità è che secondo me questi movimenti riflettono questa rivolta contro l'establishment, la casta, il pensiero unico che ha governato sia l'Europa sia gli stati nazionali al proprio interno. Ed è tutto questo che rende ancora più difficile cercare dei minimi comuni denominatori e soprattutto quello che dicevo all'inizio, trovare il consenso democratico a svolte di questo tipo. È qui che io vedo il problema. È questo il non punto. Lo vedo tanto nell'Europa a più velocità, ma proprio nel fatto che io in questo momento non riesco a vedere la spinta per arrivarci. Allora, ci sono dei fattori esterni che certamente ci costringono a perlomeno prendere seriamente in considerazione il fatto che non si può più stare dove stiamo, cioè senza far niente, e sono Trump, l'America di Trump che sta cambiando, e la Russia ai confini, e la destabilizzazione che ci circonda, anche a sud. Questi sono pungoli, che certamente dovrebbero spingere a qualcosa di nuovo. Ad agire e i governi ad avere più coraggio e le opinioni pubbliche a essere più realistiche. Però tutto questo finora non si è visto e speriamo che arrivi, perché io è questo siamo un po' agli sgocci. Vedo proprio dei problemi strutturali diversi oggi. Sì. Grazie, allora io ti ringrazio, grazie ad Adriana Ceretelli come sempre per la tua chiarezza, poi potrete essere d'accordo o non essere d'accordo, chi ci scrive meglio una buona confederazione europea che una mediocre unione, qualche altro ascoltatore ci dice ma se le piace così tanto l'Europa perché non ci va lei con la Ceretelli insieme a Barisoni e Draghi e anche Calenda, chissà perché ci mette anche Calenda, ci siamo in Europa, dove devo andare scusi? Traffico e poi la borsa. Acerta, indaga, documenta, accerta. www.acerta.it. Vi presenta Focus Economia. Ed eccoci, eccoci dunque. Il numero è sempre quello, 349-238-6666, per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp. Ma vedo che state già scrivendo abbastanza. Lecchinaggio, servilismo. Mamma mia, che noia, ragazzi. Mamma mia, mamma mia. Ma perché? Ma che c'avete? Che c'avete? Non potete esprimere un pensiero compiuto invece di buttarla là? Servili, lecchini. Che noia. Vi meritate solo insulti. Vabbè, dai ragazzi. Borse, Milano chiude in lieve rialzo, più 0,03%. FTSE All Share più 0,08%, più 0,03% il FTSE MIB, mentre l'America è ancora negativa, meno 0,12%. Per quanto riguarda il Dow Jones, lo Standard & Poor's cede lo 0,22%. Parigi in calo dello 0,35. Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Ciao Guido, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora, che giornata è stata? È stata una giornata, come dicono gli indici, sostanzialmente poco mossa. Una giornata di attesa perché ci sono vari fronti aperti. C'è quello americano con Trump e le sue politiche fiscali che devono essere un pochettino viste, messe in pratica, per cui gli operatori che avevano spinto molto durante le prime settimane della sua presidenza sulle attese adesso appaiono un pochettino più cauti. C'è la questione anche delle banche centrali, perché con l'inflazione al 2% in Europa ci si domanda cosa potrà dire giovedì Draghi dopo la riunione della BCE e allo stesso tempo poi la prossima settimana con la Fed, se davvero alzerà i tassi e quindi se deciderà che ci sono ormai le condizioni per un ulteriore rialzo dei tassi, per cui insomma ci sono vari elementi di incertezza che in queste prime due sedute della settimana abbiamo visto suggerire prudenza sui mercati. Allora, per quanto riguarda i singoli titoli, ti porterei innanzitutto su Exor più 1,22%, poi tra poco arriveremo a parlare del Salone di Ginevra, però qua ci sono le parole di Marchionne. Sì, oggi Marchionne appunto ha parlato di molte cose, ma soprattutto ha accennato a questa possibilità di un'alleanza con Volkswagen. Tutti gli hanno chiesto di General Motors, dopo Opel, eccetera, lui è sembrato chiudere sull'ipotesi di General Motors e ha rilanciato questa cosa di Volkswagen dicendo che probabilmente i tedeschi verranno a parlargli. Questo ha spinto soprattutto Exor per un motivo, perché da tempo ci sono indiscrezioni di mercato che sostengono che la famiglia Agnelli voglia disimpegnarsi dal settore auto, discrezioni mai confermate, ma in caso di un'operazione Fiat Chrysler con Volkswagen chiaramente il loro peso si diluirebbe molto in un colosso come Volkswagen e gli consentirebbe probabilmente di avere un ruolo meno centrale, quindi anche eventualmente una discesa nel settore auto per dedicarsi ad attività che loro reputano più remunerative. Prismia più 1,11%, Ferrari più 1,06%, ST Microelectronics più 0,97%, Luxottica più 0,81%, BPM più 0,67%, Unicredit più 0,66%, bene oggi anche Telecom Italia più 0,45%. Sì, per quello che riguarda Telecom Italia, cioè attesa sul mercato rispetto a un'indiscrezione, per ora un'indiscrezione di stampa, che vorrebbe Telecom Italia interessata a trasmettere le partite di calcio via internet. Sullo streaming l'ultima volta non era stata assegnata, non c'erano state offerte, però recentemente il management di Telecom Italia ha detto che potrebbe essere interessata ai diritti sportivi anche come strategia di marketing per raggiungere nuovi clienti. E questa ipotesi è tornata a circolare e Titolo ne ha beneficiato, ecco, con un più 0,45%. Allora, Guido, io ti chiedo ancora un attimo di tempo dopo la pausa per la pubblicità e naturalmente GR24. Ci ritroviamo subito dopo, ancora un paio di titoli da chiederti, a partire da Leonardo, ex Finmeccanica, la vicenda Rai Way e dei Towers, a tra poco. Vorrei un'Europa più compromessa, più sociale e con più senso dell'umorismo. E tu come vorresti l'Europa? Ogni giorno alle 14 alle 21.30 Europa 24 ti aiuta a costruirla, informandoti in tempo reale sulla situazione politica, economica e culturale dell'Unione Europea, per essere davvero cittadini d'Europa. In collaborazione con Euronet Plus. Il segnale orario vi è offerto da Italia Legno e Energia, Fiera di Arezzo, 24-26 marzo. Sono Giovanni Minoli. Tutti i giorni Mix 24 in onda dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 10.30 con Mario Secchi. Vabbè, però io l'avevo detto, E Pietrangelo Buttafuoco. Ecco la risposta a quello che chiedeva Mario prima. Di faccia a faccia, le inchieste, dentro notizie, gialli della storia. Poi libri, gli appuntamenti, il cinema. Tutti i venerdì con Alessandra Fiori e Alessandra Cravetto. Ciao Ale. Ciao Ale. Ciao Ale. E la musica di Franco Schipani. Iniziamo con la Hit Parade. Da quest'anno, oltre agli interventi in diretta, lasciate i vostri commenti, segnalazioni, critiche anche alla nostra segreteria telefonica al numero 02 46 52 41 83. Vi risponderemo. Mix 24, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.30. State ascoltando un programma offerto da JP Morgan Asset Management. Focus Economia. Ed eccoci di nuovo buonasera da Simone Spezia, benvenuti a questa seconda parte di Focus Economia. 349-238-6666 per i vostri sms, per i messaggi su WhatsApp. Ci state scrivendo in molti messaggi negativi sull'Europa e su tutti i discorsi che abbiamo fatto prima. Ci sono anche dei messaggi positivi, qualche ascoltatore come Alessandro che ci dice l'Europa deve migliorare, ma la ringrazio, una delle più grandi conquiste realizzate. Altri ascoltatori, la richiesta di un pensiero compiuto da parte mia invece che dei soliti insulti. Qualcuno mi ha scritto su Twitter: pensiero compiuto, sei contento? Diciamo che sono contento. Qualcun altro racconta di come i prezzi sono cresciuti dopo l'introduzione dell'euro. Ormai mi sembra una vecchia storia da questo punto di vista. Altri mi dicono: siamo vicini alla rivolta civile, visto che poi i toni sono sempre questi. Guardate, ve lo dico, quando prenderete il potere, usciremo dall'euro e dall'Europa, vi autorizzo, venitemi a prendere con le manette, mi portate davanti al vostro tribunale del popolo e mi fucilate, ok? Così la chiudiamo. Ancora i mercati, stavamo chiudendo, per chi si fosse messo in ascolto solamente adesso, più 0,03% il FTSE MIB, più 0,08% il FTSE OCER, non una grande giornata, negative le altre, alcune altre borse europee come Parigi che cede lo 0,35%, Francoforte invece il rialzo dello 0,06%, come sentite niente di pazzesco, Dow Jones meno 0,17%, Standard & Poor's 500 meno 0,27%. Con Guido Maurino, Radio Core, il Sole 24 Ore, eravamo rimasti in sospeso un paio di titoli a partire da Leonardo. Vai Guido, eccoci. Sì, allora, per quello che riguarda Leonardo, il titolo ha ceduto oggi il 2,23%, la società questa mattina ha annunciato una piccola acquisizione del valore di 150 milioni di dollari negli Stati Uniti, una società attiva in prodotti laser, ma il tema che continua a guidare l'andamento del titolo è quello del futuro dell'amministratore delegato Moretti. A differenza degli altri colossi pubblici che andranno al rinnovo dei vertici questa primavera, come Eni e Enel, Moretti è l'unico che non sembra sicuro della riconferma e questo fattore continua a penalizzare il titolo. Allora, A-Towers, decollo a Piazza Affari oggi, no? Ancora della vicenda Rai Way si parla, no? Sì, nel 2015 era A-Tower che doveva comprare Rai Way, oggi si dice esattamente l'opposto, che potrebbe essere Rai Way a lanciare un'offerta, magari un'offerta pubblica di acquisto e scambio per rendere l'operazione meno onerosa su A-Tower. Entrambi i titoli ne hanno beneficiato e ne hanno beneficiato sostanzialmente nella stessa quantità, perché Rai Way ha fatto più 5,29%, A-Tower più 5,33%, il settore delle torri di trasmissione è un settore che da tempo si dice debba vivere una stagione di consolidamento e questa operazione sembra piacere al mercato. Infine Intesa San Paolo più 0,26%. Sì, una giornata contrastata per il settore bancario, dove c'è stato un report di Goldman Sachs che ha penalizzato soprattutto BPER meno 4,2% e UBI meno 2,33%, si è distinta Intesa San Paolo che ha guadagnato lo 0,26% dopo che l'istituto ha annunciato la cessione del suo 50% di All Funds Bank ad alcuni investitori, fra cui il Fondo Sovrano di Singapore. All Funds Bank è una piattaforma di asset management e dall'operazione di cessione Intesa San Paolo ricaverà una plusvalenza di circa 800 milioni di euro. E grazie a Guido Maurino di Radio Core Il Sole 24 Ore per questo aggiornamento di borsa. Qualcuno chiede via SMS, visto che stiamo parlando di mercati, quando la quotazione delle azioni MPS? Chi lo sa, ed è di questo che parliamo adesso. L'occasione è questo pezzo scritto oggi dai colleghi del Sole 24 Ore, Luca Davi e Marco Ferrando. E Luca Davi è in studio con noi. Ciao Luca, buonasera. Buonasera. Un pezzo nel quale si racconta tramite dei documenti che avete, o meglio, insomma, la ricostruzione è avvenuta attraverso una serie di fonti di quello che sta succedendo in questo momento intorno al Monte dei Paschi di Siena, dove mi sembra, Luca, da quel che ricostruite voi, che si sta giocando una partita a tre che continua ad essere molto complicata, perché da una parte c'è la vigilanza della Banca Centrale Europea, dall'altra parte c'è, e con le sue, come dire, regole di bilancio che vuole applicate a Monte dei Paschi, dall'altra parte c'è la Commissione Europea, esatto, che vuole il rispetto di determinati criteri e, come dire, in dialogo, per così dire, con la Commissione Europea c'è il governo italiano che deve rispettare questi criteri, che sono le norme europee, appunto della direttiva sul salvataggio delle banche, per capire se, insomma, se ci può mettere i quattrini e quanti ce ne può mettere, la dico molto brutalmente, Luca, no? Diciamo che è un triangolo, un vero triangolo, sì, in cui forse MPS in questo momento è... il triangolo no, esattamente, cantava questo, esattamente, prego. In cui MPS è forse più l'oggetto della trattativa che non il soggetto, nel senso che appunto è il tema attorno al quale gli interlocutori, e quindi Bruxelles da una parte, Francoforte dall'altra e Roma in quanto, come dire, protagonista, in particolare il Ministero delle Finanze che è destinato a diventare primo azionista, stanno cercando di interagire. Diciamo che in questa fase si stanno palleggiando, quindi a centrocampo se la stanno giocando fondamentalmente Bruxelles da una parte e la DG Competition, cioè la divisione che ha a cuore il rispetto delle regole di un libero mercato, e dall'altra parte invece in particolare Francoforte, che hanno esigenze fondamentalmente opposte, perché Bruxelles, la Commissione Europea, vuole appunto che il contributo dello Stato nel capitale di Siena sia ridotto al minimo, così che poi possa uscire agevolmente dalla banca quando auspicabilmente le cose saranno tornate alla loro normalità. Dall'altra parte invece Francoforte, che invece diciamo ha come a cuore soprattutto la solidità patrimoniale della banca, e quindi chiede un forte aumento di capitale, o comunque insomma la conferma di questi 8,8 miliardi. In questa partita appunto si sta giocando sostanzialmente una continua richiesta di informazioni, e in particolare Bruxelles oggi, come abbiamo ricostruito, appunto, ha chiesto dati e puntuali e delucidazioni su lo stato di salute, una radiografia della banca, il capitale. La banca deve essere solvibile, la banca deve avere, devono essere identificate le perdite attese, future e correnti anche del appunto di Siena, e nello stesso tempo anche capire esattamente come sono arrivati a definire l'ammanco di 8,8 miliardi. È appunto una partita piuttosto dura e cruenta, diciamo piuttosto dura e cruenta, e che rimane aperta nonostante poi arrivino rassicurazioni. Il portavoce della Commissione Europea dice ha avuto contatti e ha tuttora una buona collaborazione con la Banca Centrale Europea. Questa è la parte, diciamo, come dire, che si vuole far emergere, perché sicuramente le istituzioni europee vogliono dare la parvenza almeno di una condivisione di intenti, e mi sembra di capire che sicuramente su alcuni fronti, che sono quelli di mettere alle strette quantomeno le banche italiane, ci stanno riuscendo. Dall'altra parte è pur vero che, avendo esigenze opposte, sicuramente in qualche modo c'è uno scontro in atto e in essere. Quando vedremo un punto, e qui mi collego anche alla richiesta dell'ascoltatore, quando avremo il punto finale di caduta? Beh, dovremo aspettare ancora un po'. Giovedì ci sarà il CDA, in cui teoricamente dovremo, si alzerà il velo su questo, sul piano industriale, che appunto è oggetto di interlocuzione con le autorità europee, perché poi si arrivi alla definizione appunto del punto finale della trattativa. Però occorrerà aspettare probabilmente ancora, perché Bruxelles sta chiedendo grandi sacrifici a Siena, sì, in questo momento, e probabilmente saranno dure come misure. Allora, adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi riprendiamo con Luca Davi da due punti. Da una parte vorrei capire un po', perché nel pezzo di oggi, nei servizi che scrivete oggi, si fa trasparire l'idea che in realtà, come dire, che dovrebbe arrivare a breve una nuova valutazione delle sofferenze dei crediti non più esigibili del Monte dei Paschi, e capire un attimo, insomma, dove potremmo andare a parare. E il secondo punto è, ti chiederei di provare ad allargare un attimo il discorso, nel senso che ci sono segnali negativi che sono arrivati oggi da JP Morgan, che riguardano i bond e le obbligazioni delle banche venete, di Veneto Banca, di Banca Popolare di Vicenza. JP Morgan dice sostanzialmente: vendete, ma non le obbligazioni subordinate, che sapevamo già essere a rischio, ma le senior. A tra poco. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Focus Economia. Ed eccoci di nuovo a parlare di banche. Beh, allora, forse, come dire, dato che manca anche un po' di tempo sulla valutazione, visto che anche il tempo stringe e manca un po' di tempo alla valutazione finale sui crediti non più esigibili del Monte dei Paschi, forse possiamo prenderci un attimo di pausa, tanto avremo modo di tornarci senza ombra di dubbio, arriveranno nuove valutazioni entro il semestre. Ti porterei invece sulle venete, su Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza, Luca Davide, del Sole 24 Ore. C'è questa notizia: JP Morgan ha lanciato un allarme per i titolari di obbligazioni senior, cioè le non subordinate, di Veneto Banca e Popolare di Vicenza. Suggerisce in sostanza di vendere i bond dei due istituti perché un salvataggio statale potrebbe non passare proprio appunto dall'Unione Europea, cioè l'Unione Europea potrebbe non farlo passare. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che sta venendo un po' allo scoperto quello che era un timore diffuso nel mercato, e cioè che sostanzialmente possa essere a rischio quel processo e quell'autorizzazione alla cosiddetta ricapitalizzazione precauzionale. Tradotto in parole semplici, a fronte di una situazione di criticità, lo Stato interviene nella banca, nel capitale della banca, e la porta in salvezza, insomma in un porto sicuro. È quello che si sta studiando appunto per Monte dei Paschi di Siena. Questo almeno fino a qualche tempo fa ed era la soluzione preferenziale appunto per le due venete. Oggi però si sta manifestando un problema in più. Le due venete stanno infatti cercando di trovare un accordo con i vecchi, o gli attuali in realtà, azionisti, a trovare una transazione per sostanzialmente eliminare tutti i rischi di contenziosi. La proposta è di chiudere attorno a un 15% del valore di tutti gli investimenti, e quindi avere sostanzialmente la liquidazione di tutti gli ammontari investiti fino ad oggi nei capitali delle banche, che sono stati azzerati, ricordiamolo. e questo appunto eliminerebbe la necessità per le due banche di accantonare molto capitale. E invece gli azionisti ad oggi stanno aderendo goccia dopo goccia, ma in maniera piuttosto limitata a questa offerta appunto di transazione. Siamo attorno al 30-34%. C'è tempo fino a ancora qualche settimana, il 21 di questo mese per Vicenza, qualche giorno prima per Veneto Banca. La sensazione è che si vada molto a rilento. Però a fronte di questo appunto tentennamento degli azionisti, le due banche si troverebbero con un'elevata necessità di accantonare capitale. Questo quindi porterebbe i loro ratio, proviamo a tradurla, porterebbe a, come dire, a ridursi la capacità, la solvibilità di queste due banche, e questo impedirebbe alle due banche di ottenere l'ok alla ricapitalizzazione precauzionale. E questo ovviamente aprirebbe la strada al cosiddetto bail-in, quindi con l'effetto di andare sostanzialmente ad azzerare anche, o azzerare, o comunque a intaccare il capitale dei bond senior, che fino ad oggi sembravano quantomeno al di fuori dal rischio di essere intaccati. Ecco, diciamo che quello che si chiama tecnicamente un azzardo morale, cioè, come dire, si spera in un intervento magari di un soggetto terzo, che è lo Stato in questo caso, ma evidentemente non si conta e non si mette in conto anche un rischio superiore, che infatti è quello che potrebbe, diciamo così, almeno a livello teorico, manifestarsi. È quello che suppone appunto JP Morgan. Io ti ringrazio, grazie a Luca Davi del Sole 24 Ore. In quest'ultima parte della trasmissione ci occupiamo di auto. In Italia ci rimane soltanto Alfa, Maserati e Jeep. Per quanto si può produrre in Europa, queste sono vetture che possiamo continuare a produrre in Italia. Cioè la Panda andrà altrove? Ce ne deve andare per di natura, no? Lo stabilimento di Brugnano è capace di fare vetture più complesse della Panda senza offendere nessuno, no? Quindi l'abbiamo sviluppato appunto con l'obiettivo là. Ci vorrà tempo, quindi non rompetemi le scatole per dire quando arriverà, ma eventualmente dovrà succedere. Ma entro alla fine del piano o dopo? No, impossibile fare la fine del piano. La macchina va benissimo adesso come sta, è inutile andiamo a sfasciare cose che funzionano. La prossima versione della Panda andrà a finire altrove. No, ma arriverà, non è che siamo molto lontani. Intorno al 2020 arriverà, il 2019-2020. Andrea Malan, inviato del Sole 24 Ore a Ginevra, tra l'altro era tua la voce, non erano tue le domande a Sergio Marchionne. Ciao, buonasera. Buonasera, sì, le domande erano mie e le risposte con la sua caratteristica bonomia erano di Sergio Marchionne. Niente male, la caratteristica bonomia di Sergio Marchionne. Esatto. Senti, vogliamo chiarire una cosa, perché i titoli in questo momento dappertutto sono entro un paio d'anni, 2-3 anni, la Panda non si farà più a Pomigliano, però da quel che mi sembra di aver capito, da quello che dice lui, ma anche da quello che leggo dalla tua analisi che scrivi oggi sul Sole 24 Ore, la realtà è che non è che Pomigliano smette di produrre e chiude, è che la strategia di Marchionne è: dove le auto che costano meno le produco dove costa di meno il lavoro, e le auto che costano e che posso vendere a più soldi le produco nei posti come l'Italia dove il lavoro costa di più. Ho capito bene? Assolutamente, la strategia è questa, l'ha portata avanti su altre cose, ricordiamo l'Alfa Giulia e lo Stelvio prodotti a Cassino, eccetera, la Maserati Levante a Mirafiori. I problemi che si possono intravedere sono due, sono quelli che preoccupano un po' i sindacati. Uno è che la data di partenza, tra virgolette, della Panda è abbastanza sicura, quella dell'arrivo delle nuove Alfa lo è un po' meno. Nel mezzo rischia di esserci un buco e a Pomigliano ricordiamo che ci sono ancora oltre 1000 operai in contratto di solidarietà, contratto che scade alla fine di questo mese, verrà probabilmente rinnovato, ma che non potrà andare oltre il settembre 2018, quindi fra un anno e mezzo. I tempi per approvare, progettare e installare un nuovo modello a Pomigliano non sono molto lunghi, cioè sono stretti oramai, perché ricordiamo che a Pomigliano dovrà essere rifatta in qualche modo la linea, non potrà essere proprio la stessa linea da cui escono le Panda. Tutto ciò si intreccia con il discorso appunto della strategia Alfa Romeo, cioè Marchionne ha già detto stiamo valutando due modelli, non abbiamo ancora deciso, ricordiamo che il piano presentato nel 2014 è riferito ai 4 anni fino al 2018, era molto preciso ma è poi diventato molto vago. I modelli sul mercato sono due, la Giulia e lo Stelvio che è appena arrivato, Per il resto non ci sono molte chiarezze. È cambiato anche il mercato nel frattempo. Per esempio, Marchionne ha deciso di non fare più la Giulia Station, di fare dei SUV, eccetera. Allora, Andrea, abbiamo veramente pochissimo tempo. Anzi, in realtà dobbiamo chiudere, se no Cruciani ci ammazza. E grazie a Andrea Valan, inviato del Sole 24 Ore a Ginevra. Mi spiace per il poco tempo dedicato. Per il resto vi dico solamente questo: sono dichiarazioni al momento sulla vicenda, dopo l'annuncio dell'acquisto di Opel da parte di Peugeot. Si parla di possibili porte aperte a Volkswagen, di General Motors, ma a questo punto, al momento, sono solamente pourparlers e dichiarazioni date da Marchionne in conferenza stampa. Grazie anche a Roberta Frisani in regia, Barbara Bianchi e Mauro Del Corno in assistenza e in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia. Vi auguro una buona serata e poi domani torna Sebastiano Barisoni. Buonasera. Radio 24. Libera la voglia di fare.